Mix 24 di Giovanni Minoli. Foiba di Basovitz, il luogo simbolo della violenza, di una storia che ha segnato il Novecento, negata, riconosciuta e poi finalmente ricordata. Dopo quasi 60 anni un'ombra sulla storia viene cancellata. Con la legge del 30 marzo 2004, la Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. La memoria di quanto avvenuto nel confine orientale del nostro paese sia oggi patrimonio comune di tutto il popolo italiano e non più tragedia privata di quanti soffrirono l'esilio e trovarono la morte. Patrimonio comune e non tragedia privata sono le parole pronunciate da Pietro Grasso, presidente del Senato, il 10 febbraio, nel giorno del ricordo del massacro delle foibe, quando migliaia di italiani vennero uccisi dai partigiani di Tito e gettati nelle fosse carsiche ai confini tra Italia e Jugoslavia. Oggi a Mix 24 il ricordo di quella tragedia. Una tragedia in due atti, dopo l'8 settembre 43 e poi di nuovo nel maggio 45 con l'occupazione di Trieste da parte delle truppe di Tito. E ancora 1947, il dramma del popolo giuliano dalmata, 350.000 italiani costretti a fuggire da Fiume, Istria e Dalmazia. Una ferita lasciata aperta dal silenzio della storia. L'unico sopravvissuto a questa terribile strage è un italiano. Il suo nome è Graziano Udovisi. Udovisi era un rappresentante della milizia italiana a Trieste, poi maestro elementare in pensione. È lui stesso che ha deciso di raccontarci la sua storia. Sentiamolo. Eravamo in un campo di concentramento, in un gruppo di 15 o 16 persone, ancora nuovamente legate con i fili di ferro e accostate a due e ancora legati gli avambracci vicini. Siamo andati e ci siamo portati verso Barbana. Digiuni da Barbana abbiamo attraversato una zona chiamata Arsia e lì c'è stato un cambio di pattuglia e siamo stati messi in mano a dei giovani croati. E lì ho visto delle cose veramente brutte. Ci dettero un epiteto non certamente gradito, traditori. Traditori della patria Jugoslavia, quella che noi non abbiamo mai conosciuto perché siamo nati sotto l'Italia. Dopodiché ci fecero avanzare, ci portarono fuori per non so quanto, qualche chilometro, lontano. Ricordo questi rovi, le spine che penetravano dentro questa carne dei piedi non abituata a camminare su una strada impervia, le puntaguzze dei sassi. Sono caduto anche perché avevo il grave peso da trainare dell'amico che era svenuto e che sicuramente l'avrò soffocato. Arrivò quasi un ordine liberatorio, alt, ferm. Rimanemmo lì ansanti, storditi, in piedi, non so perché, mi guardai attorno, quasi non vidi nulla, ma poi abituato gli occhi, ecco di una fossa, una buca grande, enorme, e capì dove eravamo. Ecco la foiba di Vines che nel 43 fu l'inizio di tutto quanto questo massacro, questa era quasi uguale. Noi eravamo sull'orlo di questa buca enorme, di questo inghiottitoio, e ripensando appunto a quei corpi che avevo visto a Vines così straziati, terribili, terribilmente e orrendamente mutilati, mi sono detto no, non voglio prendere nessun colpo di mitragliatore, di fucile o di pistola. E quando una voce urlò in slavo smrtfascismo, sloboda narodu, morte al fascismo, libertà ai popoli, il crepitio di mitra cominciò, ma io immediatamente mi gettai dentro a questa voragine, piombai sopra un alberello che sporgeva, ma tutti quanti precipitammo. Mi trovai in un momento dentro l'acqua. Non avrei mai immaginato che sotto ci fosse quest'acqua, ed è stata quella che forse mi ha salvato, anzi mi ha salvato. Quando fui sotto riuscii a liberarmi una mano, ma vidi che potevo tornare a galla perché anche quell'altro pezzo di filo di ferro era spezzato. Ma mentre cerco di annaspare per poter anche arrivare presto a galla, per poter respirare, la mia mano ha incontrato un qualcosa come se fosse una zolla d'erba, o che questa zolla d'erba, che non era una zolla d'erba, erano capelli. E questi capelli li presi con me e tirai con me. Un altro lo portai su con me. Attendemmo tutto il giorno e decidemmo di uscire. Graziano Duvisi dunque è salvo. La vittima si è trasformata in un testimone della storia. Gianni Oliva è uno dei primi storici a essersi occupato delle foibe. Ricordare quel massacro è sufficiente per risarcire le vittime? Sicuramente è un passo. Il fatto che le foibe siano ricordate ha voluto dire che da qualche anno le foibe sono un argomento di cui si parla all'interno delle scuole, si parla sui mass media. Credo però che sia soltanto l'inizio. Il primo passo. Ma si può parlare di vendetta con le foibe? No, la vendetta è un termine che afferisce alle relazioni private tra i singoli individui. Quando ci sono relazioni tra popoli, quando le stragi assumono quei numeri, c'è un humus determinato da quello che è accaduto prima. Quindi è la realizzazione di un preciso disegno politico. C'è un progetto politico dietro, tra l'altro non è un progetto dedotto dagli storici, è proprio scritto da parte di Tito e dei suoi collaboratori, in particolare Cardelli, che era il capo del Partito Comunista Sloveno, in cui si diceva che bisognava raggiungere dopo la guerra il confine dell'Isonzo. Sì. E eliminare da quel territorio tutti coloro che potevano difendere la comunità italiana, ecco, per poterle annettere. Ma perché secondo lei un silenzio così lungo ha oscurato un dramma così grande? Ma per una convergenza direi di tre interessi. Un silenzio internazionale, perché quando Tito ha rotto i rapporti con l'Unione Sovietica di Stalin, per l'Occidente è diventato un interlocutore e quindi non bisognava metterlo in imbarazzo con domande difficili. Un silenzio di partito, perché il Partito Comunista di Togliatti aveva tutto l'interesse a tacere un argomento che metteva in evidenza le sue contraddizioni tra partito nazionale e in politica estera partito internazionalista. E poi però un silenzio di Stato, perché l'Italia a sua volta ha creato una memoria nella quale si è presentata nel 1945 con un paese che aveva vinto e ha avuto bisogno di dimenticare tutto ciò che ricordava la sconfitta. Quindi sia ragioni politiche che ragioni di Stato. Ragioni politiche di Stato, cioè, ideologiche, che di Stato ideologiche insieme. E diplomatiche, diciamo così, che si sono congiunte, determinando un silenzio tombale che non ha altri esempi nella storia italiana, almeno. È per fortuna che adesso la riflessione sulle foibe è una riflessione collettiva. Le elezioni amministrative si avvicinano, il problema della scelta dei candidati lo vediamo tutti i giorni, è sempre più urgente e difficile. La Sora Cesira, come sempre, a modo suo, ci racconta perché. Annuncio facile, buongiorno. Salve, buongiorno, vorrei mettere un'inserzione gratuita. E quale categoria, prego? È una cosa politica. Ok, allora politica e istituzioni, dica pure. Ricerchiamo un bravo e serio capolista per le comunali. Per lavoro molto duro in giunte piuttosto aggravate. Si richiede assenza di precedenti penali. Contattateci ora Pasti, così se vi va. Vado io, anzi no. Vado io, ma anche no. Vado io, proprio no. Ma perché? È perché no, appunto. Non è cattiveria, non è neanche pigrizia, è che oggi fare il primo cittadino non è conveniente. Che oramai non è più il tempo che puoi comandare. Che se metti il naso fuori ti sgrida la gente. La città ormai cade a pezzi e lei cosa fa? Vado io, anzi no. Vado io, ma anche no. Vado io? Proprio no. Ma perché? E perché no, punto, dai. Che poi non c'è neanche più il fatto che ti fai pubblicità, quindi... Quindi è molto meglio andare in video sul primo canale. Una sola apparizione, boom, sei già sulla cresta. E se ti insultano magari diventi virale. E anche se non vali un nazzo diventi una star. E adesso, come tutti i venerdì, con Alessandra Fiori, sentiamo cosa vale la pena di fare, vedere, leggere, ascoltare durante il weekend. Cadi su di me, un desiderio nella pancia, una finestra accesa. Cadi su di me, senza paura di ogni gesto, fallo adesso. La canzone che avete sentito e che ascoltate ancora in sottofondo si chiama Adesso. La canta Erika Mu, che l'ha scritta insieme a Chiara Gambirale perché è ispirata al suo ultimo libro, uscito proprio ieri per Feltrinelli con lo stesso titolo, Adesso, appunto. Per raccontare l'amore, anzi, quella magica fase dell'innamoramento che rende tutto possibile. Tutto è adesso, ora, qui. Proprio in questo momento che stiamo vivendo ed è già passato, ma che è anche e soprattutto dopo, l'amore dopo. Dopo il dolore, le ferite, dopo la fine di un matrimonio o comunque di un per sempre che non è stato. Adesso racconta la storia di Lidia, autrice e presentatrice televisiva di successo che non riesce a superare la fine del suo matrimonio con Lorenzo, uno scrittore molto snob e ancora più saccente. Finché Lidia non incontra Pietro, ferito anche lui, e padre di una bambina, ed ecco che con lui, adesso, c'è un'improvvisa occasione di felicità che però è così difficile cogliere. Chiara Gambirale, la tua protagonista, Lidia, è una donna che ha sempre preferito essere libera piuttosto che felice. Perché non può essere entrambe le cose? Diciamo che forse riuscirà a esserlo quando intanto prende l'evidenza del fatto che è stata sempre, che ha sempre preferito essere libera anziché felice. All'inizio del romanzo a lei viene lanciata questa provocazione proprio dal suo ex, da Lorenzo, che è snob, saccente, però insomma le parole le sa usare e soprattutto le sa usare con lei, e le dice: ma di la verità, tu hai sempre preferito essere libera anziché felice. E lei accetta questa provocazione e poi la sua scommessa è proprio quella. Io non lo so, io ho sempre pensato che c'è un vizio nel linguaggio, se ci pensi, no? Quando stiamo con qualcuno siamo impegnati, mentre quando siamo soli siamo liberi. E a me piacerebbe un mondo in cui si dicesse: sei libero o impegnato? Sono libero proprio perché sto con una persona che sono libera di amare. Senti, nel tuo libro Lidia non riesce a staccarsi da quello che ormai è comunque il suo ex marito, uno scrittore proprio come il tuo ex, Emanuele Trevi. Ma quanto altro c'è di Chiara in Lidia? Ma insomma, vabbè, io diciamo che gioco con l'io da sempre, e Lidia senza dubbio è un mio alter ego letterario, anche se devo dire che il personaggio ad esempio più autobiografico che ho mai inventato è la protagonista di Le luci nelle case degli altri, che è una bambina orfana, io ho entrambi i genitori, e che viene adottata da un condominio. Lidia di me certo ha molto, ha soprattutto questo ansimare a vuoto e questa ricerca continua di emozioni forti che poi rischia di portarla a fuggire anziché davvero andare verso qualcuno. Senti, intorno a Lidia si muovono, anzi corrono, altri personaggi, uomini e donne, protagonisti tutti di vite ferite, di amori che hanno lasciato il segno. Però tu scrivi che gli uomini corrono perché credono di essere in fuga e invece sono alla ricerca, mentre le donne corrono perché credono di essere alla ricerca e invece sono in fuga. Che vuol dire? E poi cambia, nel senso, la prima di tutto io ci tengo molto in effetti ai personaggi che circondano Lidia e Pietro, perché mentre Lidia e Pietro si lanciano la sfida di provare a affermarsi dentro di loro e in quello che sta in quell'incontro, gli altri personaggi ognuno ha una sua ossessione e quindi non incontrano mai davvero l'altro, sono tutti in fuga, chi per un motivo e chi sono prigionieri della loro storia, ecco. Quindi diciamo che il confine fra essere in fuga e essere alla ricerca è molto sottile. Senti, i tuoi personaggi comunque sorprendono per la loro profonda consapevolezza. Hanno fatto analisi spesso e si potrebbe dire che sono psicoanaliticamente molto maturi, eppure sono incapaci di cambiare. Che altro serve oltre alla consapevolezza? Serve forse di averne un po' di meno. Serve capire che ci sono cose che non possiamo capire e a cui ci dobbiamo abbandonare. Ma per Lidia, la tua protagonista, l'unica cosa che conta veramente adesso è che quello strazio, ovvero la fine del dolore, si ripeta. Che c'è oltre la paura nell'amore dopo? Hai mangiato la mela, nel senso hai scoperto che fra le sue infinite caratteristiche l'amore ne ha una, che può finire. C'è un momento per me particolarmente stato doloroso, quando Lidia ricorda il giorno in tribunale quando si è separata e sì. Dice in quel momento tu realizzi che l'amore forse è solo un numero e il tuo amore non è stato il primo a cominciare e non è nemmeno l'ultimo a finire. E quindi ecco, sai questo, però io non so, lo trovo più commovente l'amore dopo, proprio perché rischia di avere a che fare con il disincanto e invece rilancia su un altro piano che forse è quello della comprensione profonda. A un certo punto Pietro dirà a Lidia: ma adesso cosa significa stare insieme, proprio dopo che ci siamo fatti male, dopo che abbiamo ovviamente accumulato ferite ma anche esperienze? E poi Pietro dice: forse vuol dire prendere come presupposto la complessità dell'altro. Ci vedo del romanticismo in tutto questo. Ma tu scrivi anche: sul pianeta noi si deve creare questo equilibrio matto fra l'attenzione massima e il chi se ne frega. Ecco, come si fa, Chiara? Io ci ho messo più di 200 pagine per tentare di capirlo, ecco. Sapere, avere capito qualcosa degli altri, delle relazioni e di te, eppure in quel momento aprirti al fatto che sei come un bambino, non sai niente, perché poi comunque è vero. Intanto l'amore dopo una ferita può succedere, no? Può arrivare a tutte le età, perché le ferite, l'amore così come può arrivare a tutte le età, ti può deludere a tutte le età. E però tutto quello che hai imparato ti serve ma non ti serve, cioè diciamo che è un po' come uno strano patto si deve formare tra il nostro conscio e il nostro inconscio. Senti Chiara, hai 37 anni e questo è, mi sembra, il tuo 11° romanzo, e allora mi viene un dubbio: il dolore aiuta a scrivere? È senz'altro, Alessandra, questo senz'altro, nel senso che, ma soprattutto posso dirti una cosa così, mi viene istintiva, non ci avevo mai pensato, forse aiuta a scrivere la voglia di superarlo. Per me la scrittura è sempre stato il mezzo per tentare di quantomeno fare luce sulle domande che mi sto facendo, poi ottenere le risposte, insomma, quello è un altro discorso. Senti, però mi viene anche un altro dubbio allora. C'è del narcisismo nel dolore? Se non vuoi uscire dal dolore rischia di esserci. Per esempio i personaggi che circondano Lidia e Pietro e sono indubbiamente narcisisti, perché sono compiaciuti, no? Se pensi anche ad esempio c'è un personaggio che va sempre con gli uomini sposati, sì. Un altro che continua ad essere innamorato della moglie che ormai è morta da molti, molti anni, e quindi certo che in quel tipo, certo che c'è del compiacimento narcisistico, perché però è un modo come un altro per nascondersi dalla vita, no? Anziché appunto incontrare gli altri, certo che c'è. Grazie Chiara Gamberale, il suo ultimo libro è Adesso, appena pubblicato da Feltrinelli, e ascoltiamo ancora Erika Mu nella canzone che proprio a quel libro è ispirata. Adesso muoviti verso di me, siamo terra e faro, faro e stelle, stelle, buio, buio e mani, mani e mani, siamo pronti. David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Tu non sai cosa vuol dire essere belli in modo assurdo. No, non lo so, Donatella. Ma l'hai bevuto? No, mi sono zulandizzata e adesso ti faccio anche una faccia magnum. Ti è? Donatella, lei può fare le facce che vuole, ma sa com'è, in radio non si vedono. Dici, Dico, Donatella, senta, sta vedendo Zoolander 2. Brava! Quindi, anche se tu non sei bella in modo assurdo, ti dico che lui, il modello Zoolander, è tornato per una missione incredula. Derek Zoolander, sono dell'Interpol, Global Fashion Division. È gnocca, io mi fido. Vogliamo che ti infiltri nel mondo dell'alta moda. Se parliamo di supermodel non ha confronti, è all. Cioè tu sei modella femmina o modello maschio? All è all. Ti sta chiedendo se hai il salsicciotto o la patata? Ops. Capito? Solo lui può salvare i più belli del mondo e quindi deve tornare in forma per affrontare il male. Ma lo sai che il film è girato a Roma e in un pezzo ci sto pure io? Donatella ha fatto un cameo? Dici il budino? No. Ma che? Stavo a Villa Borghese con mia cognata e quando abbiamo visto che facevano il film ci siamo messi lì tutto il giorno. Ho una fatica, però io ci sto due volte. Mia cognata passa dietro una volta sola. Guarderò Donatella, complimenti, pure a sua cognata. Grazie. Comunque questo Zoolander, quando è uscito per la prima volta in America, non ce lo sono filato molto e non ha fatto quasi una lira. Cioè, ha incassato, mi pare, 50 milioni di dollari, che dicono che sono pochi, però a me mi sembrano un sacco. Comunque è diventato cult, che ora tutti fanno la Magnum. Sai la faccia quella con la bocca di culo? Tu la sai fare? Certo, Donatella, non si vede altro in giro. Hai fatto la battuta! Brava! Grazie. Allora, dato che sei brava, ti dico pure che gli attori sono gli stessi dell'altra volta, però sono passati anni e quindi sono un po' più vecchi. Eh beh, sì, succede, Donatella, succede a tutti, anche a Ben Stiller, Owen Wilson e questa volta c'è anche Penelope Cruz. Senta, sì? Donatella... Donatella, vale la pena vedere Zoolander 2? Certo che vale la pena! È ficosissimo in modo assurdo! Grazie, Donatella! Scusa, ma secondo te, adesso, 50 milioni di dollari sono pochi? Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno Alessandra. Allora Pietrangelo, dove si va questo fine settimana? Allora, dove si va? Come vedi, io sono su questa imbarcazione, con me ci sono gli altri, i miei, tutti saraceni, e già avvistiamo Mazara del Vallo, però io non so se posso portarti con me. Mi vuoi lasciare qua? E non lo so, sai, sei una signora, una bellissima signora, graziata. No, graziata. Scusa, non mi vuoi. Ma no, ascolta. Wallara, c'è scena a Wallara. Quando può cavare non si può sta. Wallara, sa buffa Wallara. Tu capisci, io... No, no, no, io non capisco, vengo anch'io. Cioè, tu capisci? Dimmi perché però, spiegami. Ti dico, ecco, tra tanti saraceni ti presento Diego Davide, illustre professore e un grande ricercatore di storia. Gli ha scritto un trattato assai raffinato ma scivolosissimo. Il titolo è De Wallera ed è pubblicato per i tipi di ad est dell'Equatore. Sa benedica Diego. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Diego, lei ha scritto questo libro che è un viaggio negli usi e nelle declinazioni di uno dei lemmi più antichi e anche più diffusi del dialetto napoletano, Wallera, femminile singolare. Ma intanto la pronuncia è corretta? Sì, è proprio questa. Un lemma che, come accennava Pietrangelo, viene dall'arabo e arriva sulle bocche dei saraceni proprio a Mazara del Vallo, no? Siamo intorno all'827. Dal Mazara del Vallo passa attraverso la bocca dei siciliani del tempo e arriva a Napoli, dove la doppia D di Guaddara, come dicevano i siciliani, si trasforma in doppia L e quindi abbiamo l'odierna Wallara. Senta, ma lei mi sa raccontare anche forse come nasce il gesto scaramantico che appunto ha a che fare con la Wallara? Beh, guardi, allora intanto questo gesto di portare la mano e di accarezzare o strofinare i testicoli è ben augurante, è come accarezzare la vita per allontanare la morte. Diego Davide, una domanda in punto di Wallera, ma me la raccontate, voscenza, la vicenda assai dolce tra Apollo e Dioniso proprio sulla Wallera? Si incontrano sul vanno a fare questa scampagnata, se mi passa il termine, sul Parnaso, e Apollo si sveglia al mattino con questi testicoli gonfi, ne parla a Dioniso e dopo un po' gli confessa, quasi con un po' di vergogna, con un po' di timore, che questa sua sensazione di pesantezza è dovuta ai poeti, i poeti che cantano per i regnanti e non privi di una vera ispirazione. Ecco, questa è un'opera molto bella dei padri della letteratura letteratura napoletana, si chiama La malattia di Apollo, e racconta proprio di come poi i poeti abbiano cominciato a scrivere per accattivarsi il favore di quelli che erano i sovrani che li accoglievano a corte. È un napoletano antico, è un napoletano che però io ritengo vada recuperato, e si parla tanto di un recupero della nostra tradizione, si parla di un recupero della storia locale, ma lo si fa, ecco, opponendo il meridione al nord, i borboni ai piemontesi, l'occidente all'oriente. Io invece ritengo che questa operazione sia priva di senso storico, perché noi siamo greci, siamo romani, ma siamo anche arabi, esiste una comune tradizione euro-mediterranea, ed è questa forse che va recuperata. Grazie a Diego Davide, il suo trattatello De Gallera, edito da A Est dell'Equatore. Grazie a voi. Grazie. Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Ed eccoci al diario di una smamma con Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale, buongiorno. Oggi parliamo di chi va in vacanza. È la prima estate che passo a New York e mi sta ammazzando. Lo sa cosa ho fatto ieri? Ho provato a dormire in vasca da bagno, supina, con l'acqua fredda che mi arrivava fino al collo. Non è mica una cattiva idea. Ma ci si è messo di mezzo il rubinetto, sgocciolava, non mi faceva dormire. E allora sa cosa ho fatto? Ho ficcato l'alluce nel buco del rubinetto. L'intelligenza trionfa sempre sulla materia. Marilyn, quando la moglie è in vacanza, un sogno, Ale. Meraviglioso, un sogno che però oggi purtroppo ti devo far ritornare sulla terra, è completamente cambiato. Come? Perché il film allora era la moglie che partiva, andava in vacanza con i bambini, l'ombrellone, eccetera. Per noi oggi la scena è un'altra. Facciamola. Cucina di casa mia o casa tua, cosa preferisci? Tua, perché così non sporco. Perfetto. Casa mia, cucina mia, allora tu sei tu e io sono Sally. E Sally chi è? Sally è la mia tata. La tua tata, va bene. La scena parte così. Signola, io avele maturato mese ferie. Ferie? Sally, quando vuoi partire, cara Sally? Luglio, agosto? No, luglio, agosto, biglietto Manila, troppo calo, signora. Io partile tra poco, mese marzo, e tornale fine mese aprile. E posso chiederle anche anticipo liquidazione? Ecco, questa è la scena, il titolo del film di Noise Mamma è Quando la tata è in vacanza. E questo film qua, e questo titolo qua, ha conseguenze spaventose. Cosa ho fatto per meritare questo? Cosa ho fatto per meritare anche questo? Mio Dio! Andrà via un giorno questo dolore infernale! Scusate, ma ho proprio bisogno di piangere! Ah, che schifo la vita! Quante volte ti è capitato? Tante, tante! Ho pianto tanto, tanto, tanto! Però per evitare questo disastro, come sempre, c'è la tecnologia che ci dà una mano e c'è una app che si chiama Le Cicogne, che ti trova tate, filippine, italiane, inglese, francese, tutte quelle che vuoi, anche nel giro di un'ora, cioè quando sei in massima emergenza. Scusa, mi sorge un dubbio, ma c'è anche la app o il film che dice quando la nonna è in vacanza? Perché tu, scusami, spiegami un attimo, oltre la tata c'hai anche la nonna? La nonna è la base della mia esistenza, certo che sì. Sai come dice la mia mamma, quella santa donna? Santa donna. Santa donna. Chi ha mamma non trema, ed è vero. Ma chi al posto della mamma c'è la smamma che fa? Trema, Ale. Oppure va sul sito www.lecicogne.net. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti mister dopoguerra, pettinate come lei. Ed eccoci alla musica con Franco Schipani. Buongiorno Franco. Ciao Alessandra. Vento d'estate, io vado al mare, poi che fate? Non mi aspettate, forse mi perdo. Vento d'estate, Max Gazzè. Io vado al mare, non mi aspettate. Sì, hai capito? Ho capito, ecco. Quindi non ti aspetto, ci vediamo al mare, ho capito. Bravo. Okay, Max Gazzè è un cantautore per caso, è nato come musicista, si è esibito nei Paesi Bassi, in Francia da giovane, suonando un po' di tutto, dall'acid jazz al pop. Poi è arrivato in Italia, è entrato in un giro di cantautori molto interessanti, Alex Britti, Daniele Silvestri e soprattutto Nicolò Fabi, il resto è storia. Quindi Max Gazzè è di scena questa sera al Teatro della Concordia di Venaria Reale alle ore 21. E quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone. È l'ultimo bacio, Franco, è il film, è, il film. È la colonna sonora del film questa. Esatto, ma non è l'unico successo di Carmen Consoli, tant'è vero che tutti i suoi concerti sono esauriti, ma non soltanto in Italia, anche all'estero. Io l'ho vista a New York, sold out assoluto, e pensa che anche il New York Times ha fatto delle review su di lei veramente fantastiche. Allora, la musicista, compositrice e autrice catanese questa sera proporrà il meglio del suo vasto repertorio ed alcune novità. L'appuntamento è al Pala Riviera di San Benedetto del Tronto alle ore 21. Due appuntamenti da non mancare perché ne vale la pena. Ecco Alessandra, insieme a Fabrizio De André, Bruno Lauzi e Gino Paoli, Luigi Tenco è stato uno dei protagonisti della cosiddetta scuola genovese, che era un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. Cantautore e compositore dalla intensa carriera artistica e purtroppo dalla vita breve. Il suo suicidio, avvenuto in un albergo di Sanremo durante l'edizione del 1967 del Festival della Canzone Italiana, lasciò sgomento e destò scalpore nell'ambiente musicale e nella società italiana in generale. Un giallo ancora irrisolto. Ce lo racconta Giovanni Minoli. Restate con noi.